Fada Mat, Bolla G, c'è chi le mister è uguale, c'è chi la vita è strana, strana e imprevedibile, c'è chi la vita è amara, amara e imprevedibile, c'è chi la vita è dolce, dolce e imprevedibile, c'è chi la vita vola, è sempre un viaggio vivere, e se la vita è un viaggio ora voglio volare. Robe da dimenticare, e lo sai. E se la vita è strana, ma qui tutto può andare. Fanno un taglionetto per farti più male, più male. Ho chiuso la porta, resta tutto alle spalle. Le giornate più belle, il mare, le vacanze. L'amaro che in bocca porta un male senza tempo. I ricordi sbiadiscono, la tua voce non la sento. Lo scordate, pelo chiuso in un cassetto. Io puzzo di strada, tuo padre te l'ha detto. C'è che la vita è strana, strana e imprevedibile. C'è che la vita è amara, amara e imprevedibile. C'è che la vita è dolce, dolce e imprevedibile. C'è che la vita vola, è sempre un viaggio vivere. Strano perdersi, trovarsi, distrarsi, starti vicino per poi allontanarsi. Intorno a tutto a posto, scattano gli allarmi. Ma è sempre vivere, può darsi. Immedesimarsi, adattati subito. Io che mi fido, io che dubito. Voglio volare, ha borseggiato le ali. Lei che ama i criminali, tutti innocenti dei reati, poi si vede. Non si compra da mangiare, tanto meno con la fede. Mi rilasso, non ci penso, vediamo che succede. Amare è imprevedibile, ho sete, sì. Drive me crazy, baby. C'è che la